Codice sorgente. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Di Enrico Pagliarini e Simone Spezia. Bentornati, questa è la terza puntata di Codice Sorgente. In questa puntata ci interroghiamo su quello che sta succedendo nello spazio economico grazie o a causa dei dati che si accumulano all'interno di grandi aziende, grandi ma poche aziende, e soprattutto concentrate in due poli geografici, Stati Uniti da un lato e Cina dall'altro, soprattutto, non solo, ma soprattutto in questi due poli geografici. Io sono Enrico Pagliarini, bentornati a Codice Sorgente, a fianco a me c'è Simone Spezia. E bentornati anche da me per questa terza puntata. Poi nelle prossime andremo a toccare altri temi delicati, insomma parliamo di grandi masse di dati e parleremo anche di chi genera questi dati, che sostanzialmente siamo noi, e parleremo anche di come questi dati vengono utilizzati, queste grandi masse di dati vengono utilizzate per la guerra digitale, per anche la i cyberattacchi di propaganda, appunto abbiamo parlato nella scorsa puntata. Oggi ci occupiamo, come si diceva, dell'aspetto più strettamente economico, ossia di chi detiene questi dati, che fondamentalmente, come vi dicevo un attimo fa Enrico Pagliarini, sono poche grandi aziende. Pensate solamente a Facebook e Google, giusto per darvi un'idea. Facebook e Google si spartiscono più o meno un 90% del mercato pubblicitario del mondo occidentale. Sono dati estremamente rilevanti che servono a dare un po' una misura di quanto i dati dei quali sono in possesso, che sono fondamentalmente e spesso dei dati personali, vengano utilizzati da queste aziende. Vengono utilizzati naturalmente anche per tante altre applicazioni, ne abbiamo parlato nella prima puntata, il machine learning, il futuro dell'intelligenza artificiale e via dicendo. Detto ciò, rimaniamo con il fatto che quello che è stato definito dall'Economist come il nuovo petrolio è immateriale, innanzitutto, per certi versi, a differenza del petrolio, cioè non ha una collocazione geografica specifica ed è nelle mani di pochi. A proposito di numeri, basta guardare la lista delle aziende per capitalizzazione di mercato e vi cito i nomi, poi fate voi. Apple è al numero uno, lo sappiamo, la più grande azienda del mondo, e Apple basa parte del proprio business sulla raccolta dei dati. Probabilmente non è la prima azienda che ci viene in mente quando parliamo di dati, ma sicuramente ci viene in mente Alphabet, che è l'azienda all'interno della quale esiste Google, di fatto è Google con questo nuovo nome, Microsoft, Facebook, Amazon. Queste sono le prime 5 aziende per capitalizzazione. C'è chi dice che queste aziende siano troppo grandi, ma già sul fatto che sulla definizione del troppo ci sono varie correnti di pensiero. Saluto Luca De Biase, che è un nostro collega, caporedattore di Nova, il Sole 24 Ore. Luca, benvenuto. Grazie dell'invito. Sul troppo, tu hai scritto anche recentemente un commento sul Sole 24 Ore, già questo andrebbe definito, però effettivamente ci sono tanti spunti di riflessione che ci suggeriscono che effettivamente queste aziende sono molto molto grandi e alcuni dicono troppo grandi. Sì, ma appunto la domanda è che cosa significa troppo, perché ovviamente quando le aziende sono molto grandi il riflesso condizionato è parlare di antitrust. Sono aziende così grandi da impedire la concorrenza. Questo tipo di ragionamento parte da un presupposto relativamente sbagliato, comunque da correggere, perché queste aziende sono diventate così grandi per una crescita organica, cioè hanno costruito il loro enorme, indubbiamente enorme potere, innovando, conquistando i loro clienti, conquistando sempre più larghe quote di mercato e a questo punto governando i mercati che hanno in qualche modo inventato loro stesse. Se vuoi, la Apple non è neanche tra le accusate di monopolio, perché i prodotti della Apple non sono quasi mai maggioritari nel loro mercato. Però è chiaro che Apple ha inventato il mondo del internet mobile con, giusto, 10 anni fa, lo smartphone. E per tutto il periodo in cui era l'unica a farlo era monopolista di questo, ma nessuno l'accusa di monopolio un'azienda che innova. Google non è stato l'inventore dei motori di ricerca, però l'ha fatto così tanto meglio degli altri, ricorderete Altavista allora, che tutti hanno usato il suo. E una volta che tutti usano una tecnologia di rete, quella tecnologia di rete attira nuove risorse e tutti si conformano e si comportano in modo tale da adattarsi a quella tecnologia di rete, che diventa sempre più forte e quindi attira sempre nuove risorse. Questo è un po' il meccanismo di monopolio organico che avviene nelle tecnologie di rete. Sì, una delle dinamiche di internet è proprio questa, quella di concentrare, anche perché forse appunto non è il caso di Apple, ma molte delle cose che abbiamo citato, molti dei servizi che citiamo quando parliamo di queste aziende, sono gratis, quindi è molto facile poi concentrare tutto in un unico punto. Sì, beh, sì, naturalmente gratis in termini monetari, il per, nostro per tempo dire, non è gratuito, il tempo che noi diamo a Facebook non lo è. E nemmeno i dati che gli forniamo, perché poi alla fine il pagamento che noi forniamo a queste aziende è questo, è il dato, no? È una specie di baratto, loro ci danno un servizio e noi gli diamo qualcosa che abbiamo. Luca, però c'è l'impressione un po' che sotto questo aspetto si sia arrivati ad una sorta di punto di non ritorno. Quando si dice, è vero, in alcuni casi abbiamo assistito ad aziende che sono state scalzate dalla loro posizione di dominio, citavi Altavista, a me viene in mente la fine ingloriosa di Yahoo, tanto per fare un esempio. È vero anche che l'impressione è che adesso siamo ad un punto di non ritorno. Pensiamo solamente a Google. Google ti offre una serie di servizi integrati pazzesca, dalle mappe passando per l'email arrivando ai servizi di ricerca che spesso sono collegati ad un tuo account e quindi sono in grado di identificare che cosa tu ricerchi. Tramite tutto questo materiale che loro raccolgono sono in grado di fornirti dei servizi sempre più avanzati e a quel punto tu non hai interesse di fatto ad iscriverti ad un altro servizio e quindi questo potrebbe in qualche modo essere il punto di non ritorno, cioè il troppo grande potrebbe voler dire questo. Sì, la premessa che ho fatto è doverosa, cioè queste sono aziende che sono cresciute organicamente innovando. A questo punto, come dicevamo, sono così grandi che qualcuno si preoccupa che blocchino la concorrenza ulteriore. Da questo punto di vista dobbiamo riuscire a ragionare in termini innovativi a nostra volta. La prima cosa che dobbiamo dire è che non è vero che sono monopoliste mondiali, perché come dicevate fin dall'inizio, per esempio in Cina non sono così grandi e la Cina è il più grande mercato del mondo. Quindi quando si parla di Baidu, che è il Google della Cina, quello tende a diventare grosso come Google e secondo il Financial Times, avendo dati su una popolazione molto più grande di quella degli altri, potrebbe diventare molto più forte di Google nell'intelligenza artificiale. Queste sono tutte cose che si dicono e che si vanno tenute presente. Quelli che considerano queste grandi aziende troppo grandi sono di solito europei. E gli europei sono il posto dove non ci sono alternative, perché non sono stati capaci gli europei, non siamo stati capaci di crearle queste alternative. In Cina, con i loro metodi, le hanno create, ma sono alternative serie. Alibaba è un'alternativa ad Amazon molto forte. Chiaramente Snapchat e le altre piccole americane faticano a competere contro le grandi americane, ma WeChat cinese ce la fa. Quindi ci sono una serie di cose che vanno dette. La seconda cosa che va detta è che per battere questa gente dobbiamo avere una evoluzione nel concetto di come dire, antitrust, no? Infatti quando Simone parlava prima della entrata in nuovi mercati delle aziende che sono grandi in un mercato, citava implicitamente il concetto di abuso di posizione dominante. Certo. Ed è proprio questo di cui l'antitrust europea accusa Google. Google è dominante nei motori di ricerca, però è entrato nel sistema dello shopping, delle segnalazioni, dei più convenienti shop online, come facendo concorrenza a quelli che già ci abitavano in quel mercato, e quindi è accusata di avere abusato della sua posizione dominante per entrare in un altro mercato. Questo è una cosa sulla quale c'è concetto e c'è evoluzione, perché evidentemente la definizione dei mercati dei quali puoi abusare è abbastanza astratta, è culturale, la definisci. Che cosa sono i motori di ricerca? Google risponde: io non sono maggioritario, perché la gente per cercare online cerca anche su Amazon i prodotti, cerca anche su Booking le camere, cerca anche su altri sistemi, e quindi la mia, certo, la definizione di mercato di motore di ricerca non è esattamente, non è univoca, non è univoca, non è facile. Siamo di fronte a bisogno di fare un salto culturale profondo. Non è che possiamo accettare di essere dominati da questi cinque, ma dobbiamo rispondere facendo meglio di loro. Sì. In queste cinque puntate di Codice Sorgente, che lo diciamo e l'abbiamo detto altre volte, servono anche come spunto di riflessione per i nostri ascoltatori, parliamo e parleremo anche di geopolitica, soprattutto in una puntata in cui parleremo di guerra digitale, e dietro al concetto di guerra digitale poi ci sono tantissime cose, lo spionaggio industriale che è sponsorizzato a volte dagli stati. In questo caso, secondo te, esiste anche un problema geopolitico? Quindi tu hai citato l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, cioè gli Stati Uniti non intervengono anche perché dall'altra parte c'è un grosso competitor e grandi aziende competitor che sono cinesi, e quindi da un certo punto di vista vanno tutelate le aziende americane perché possano competere con le cinesi, che sono molto tutelate dallo Stato. Sì. Quando noi parliamo di questo parliamo di fare sistema, no? Fare sistema americano, fare sistema cinese. Questo indubbiamente gli europei, per quanto riguarda il mondo digitale, lo stanno cercando di fare adesso con una nuova categoria della competizione, che è quella che chiamiamo Industria 4.0, non a caso concetto nato in Germania, che è compatibile con grandi campioni digitali europei come Bosch e Siemens, e che spera di diventare grosso e competitivo come gli altri. Certamente i sistemi competono tra loro, gli stati cercano di aiutare i loro campioni locali, poi c'è una questione di geopolitica, come hai detto tu, che va oltre tutto. Certamente la Corea ha difeso i suoi, la Cina ha difeso i suoi, l'Europa e il Giappone sono stati meno bravi a difendere i loro, ma cercano a loro volta di ricostruire una leadership in nuovi settori. Gli americani sono i numeri uno da questo punto di vista. Sì. Allora ci prendiamo un attimo una pausa e poi torniamo con Luca De Biase. Io vorrei capire da Luca se secondo te, Luca, ma da quello che ci hai detto forse la risposta sarà un no, se la multa della Commissione Europea a Google può rappresentare, se non un punto di svolta, quantomeno un paletto, no, messo là. Dico che da quel che mi sembra di aver capito la tua risposta sarà un no, è che stiamo comunque ragionando ancora in termini, se vogliamo, novecenteschi sull'antitrust, mentre invece forse dovremmo ragionare in termini diversi. Poi tra l'altro anche di questo tema, di divisione tra novecentesco e di quello che è invece gli anni 2000, torneremo a parlare più avanti in questa stessa puntata, perché ci occuperemo di lavoro. Intanto pausa. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Codice Sorgente. Riprendiamo questa puntata di Codice Sorgente. Questa settimana ci occupiamo di dati, della concentrazione dei dati, soprattutto in grandi aziende che generano grandissimo valore. C'è chi dice troppo valore, bisogna prendere una decisione. Ne abbiamo già parlato nella prima parte, decisioni molto complesse che però offrono punti e spunti di riflessione molto interessanti. Simone Spezzi. Sì, eravamo rimasti in sospeso con una domanda per Luca De Biase. Io vorrei capire da te, Luca, se appunto, se questa decisione della Commissione Europea, questa grande multa data a Google, che cosa rappresenta effettivamente? Cioè, se rappresenta un punto di svolta, se rappresenta un paletto messo là a segnalare il fatto che ci stiamo occupando del problema e ci stiamo pensando, o se rappresenta semplicemente una mossa, per così dire, arretrata, fatta con categorie vecchie. Oppure anche di difesa dell'Europa, sempre in termini geopolitici. Per capirlo abbiamo l'esperienza di quello che è successo alla Microsoft, che ha subito una grossa multa, non così grossa, ai tempi di Mario Monti, antitrust europea. Fondamentalmente la mia risposta è che questa multa di 2,7 miliardi di dollari, di 2,4 miliardi di euro, non è una puntura di spillo, è un sacco di soldi. Però fondamentalmente, se consente a Google di proseguire nel suo, tra virgolette, abuso di posizione dominante, si ripagherà nel tempo. Quello che significa questa multa è: c'è un limite, noi te lo daremo, stai attenta Google, che noi stiamo a guardare e cerchiamo di costruire un limite alla tua crescita in territori economici che non sono quelli originari tuoi. Sarà una piccola picconata, non ferma Google, non è assolutamente compatibile con questo, però dice a Google: occhio, no? Non sei illimitata di fronte a... E Microsoft ha avuto lo stesso effetto. L'unico problema è che per Microsoft quella multa è arrivata nel momento in cui finiva il mondo dei PC centrali dell'informatica e partiva il mondo di internet come centrale del mondo dell'informatica, quindi si è accompagnata con uno sgonfiamento del potere di Microsoft, sì, nel mercato. Un momento di debolezza. La stessa cosa dobbiamo capire proprio per gli anni 2000, come diceva Simone, per essere strategici nel rispondere a queste grandi aziende, cioè fare delle sanzioni, delle risposte al loro grande potere che sia compatibile con il momento storico nel quale queste stanno. E se il momento storico, come dicevi tu Enrico, è quello di un'Europa che risponde come sistema perché per esempio si occupa del suo digitale in funzione della manifattura, del cambiamento del modo di produrre, con la robotica, l'intelligenza artificiale, i sensori, big data, e quindi assume su di sé una leadership nel modo di produrre beni industriali del futuro, a questo punto sta creando una nuova fase della storia dello sviluppo della digitale, con la quale potrebbe mettere in difficoltà le aziende che si sono occupate soltanto, diciamo, del sistema dell'informazione e non del sistema massiccio della produzione di beni. Abbiamo adesso, a questo punto, abbiamo raggiunto un altro ospite, che è il professor Stefano Mannoni, un avvocato e professore ordinario di diritto, di storia del diritto medievale moderno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell'Università di Firenze, di diritto della comunicazione. Tra l'altro è un editorialista del Sole 24 Ore, si è occupato esattamente di questi temi ed è stato anche commissario dell'AGCOM per 7 anni, dell'autorità garante per le comunicazioni dal 2005 al 2012. Professor Mannoni, buongiorno. La ringrazio lei. Professore, innanzitutto vorrei girarle subito la domanda che abbiamo fatto a De Biase, ossia questa decisione della Commissione europea su Google rappresenta secondo lei un punto di svolta o che cosa vuol dire? Io ho un'impressione, proprio da se che sia sbagliato, che l'antitrust europeo sia stato un po' tiepido con i motori di ricerca americani, anche per ragioni geopolitiche, nel senso che la precedente amministrazione, non è un mistero, proteggeva molto queste aziende della Silicon Valley, e naturalmente Bruxelles non è che sia insensibile agli umori dell'amministrazione americana. Quindi il combinato disposto di un appoggio molto forte dal governo degli Stati Uniti e un'opinione pubblica che attinge a piene mani ai servizi di questi motori di ricerca hanno fatto sì che l'antitrust sia andato con la mano molto leggera, l'antitrust sia europeo che nazionale, nei confronti di questi colossi. Va aggiunto anche il fatto che, insomma, per mettere a fuoco il problema di questi motori di ricerca bisogna superare un paradosso, che è questo, che questi monopoli, i monopoli sono sempre stati visti come qualcosa di negativo, invece questi sono monopoli che sono accresciuti dalla domanda degli utenti e quindi paradossalmente sprigionano da una domanda positiva degli utenti, e quindi si fa fatica a colpirli con gli strumenti dell'antitrust, che non sono i torvi proprietari delle ferriere o dei trasporti o i monopolisti di Telecom e tutte queste cose qui, ma sono dei servizi che si alimentano dalla domanda degli utenti e quindi sono monopoli un po' atipici. Sì, lei ci sta dicendo che da un certo punto di vista anche l'antitrust deve tener conto degli umori dei cittadini o comunque della politica e in questo caso o in altri casi un intervento nei confronti di queste società non è molto ben visto né dagli utenti, dei cittadini, ma probabilmente nemmeno dalla politica in senso lato. L'antitrust è un potere discrezionale, no? Che ha la funzione di tenere a bada non il potere dominante ma l'abuso di potere dominante, perché il potere dominante di per sé è illecito, quello che ne è illecito è l'abuso. Allora, il paradosso di questi motori di ricerca è che l'abuso è quello fatto grazie alle domande degli utenti, che chiedono sempre più servizi, operatori come Google e compagni, e quindi, come dire, intervenire contro questi operatori sarebbe come intervenire contro la volontà degli utenti, il beneficio degli utenti. E poi c'è anche l'amministrazione americana, perché questo è il convitato di pietra di cui non si parla mai, ma insomma l'amministrazione americana le difende, le aziende a Bruxelles, quindi voglio dire, prima l'amministrazione Clinton, poi l'amministrazione Obama, credo che insomma non le abbia lasciate esposte, diciamo, agli strali se ce ne fosse stato bisogno dell'antitrust. Non è un caso, credo che questa multa dell'antitrust sia intervenuta con un'amministrazione diversa che è notoriamente in termini non particolarmente amichevoli con la Silicon Valley. Il potere che stanno accumulando queste aziende, sia in termini economici ma soprattutto in termini di quantità di dati, stiamo parlando di dati che aiutano queste aziende a profilare milioni di utenti, beh, questo potere secondo alcuni è un potenziale pericolo per la democrazia, per il dibattito, pensando alla possibilità, diciamo potenziale, perché non ci sono prove che oggi questo avvenga, alla possibilità di influenzare milioni, se non miliardi di persone. E pensiamo alla che cosa potrebbe succedere in un momento in cui un paese va al voto. Questo lo diciamo anche in prospettiva, perché non sappiamo chi domani sarà il proprietario di queste aziende e non sappiamo nemmeno quali saranno i rapporti domani tra i paesi. Oggi tra l'Europa e gli Stati Uniti c'è sostanzialmente un buon rapporto, controverso su alcuni punti, ma sostanzialmente di partnership, ma questo non è garantito per il futuro. Ecco, l'antitrust, che normalmente interviene anche per regolamentazione, interviene sul mercato e quindi interviene sulla dimensione economica, può intervenire anche pensando a questa seconda dimensione, cioè quello dei potenziali problemi e pericoli per la democrazia? Ecco, tenga conto che l'antitrust è nato negli Stati Uniti nel 1890, quando si percepiva che l'esistenza di trust, di cartelli, di monopoli, di proporzioni gigantesche, per esempio i Rockefeller, il trust delle ferrovie e delle comunicazioni, stavano mettendo a repentaglio il modello jeffersoniano della democrazia americana, cioè quella dei piccoli proprietari, dei piccoli imprenditori. E quindi la grossa spinta all'antitrust è sempre stata una spinta tutt'altro che insensibile alle sollecitazioni politiche, perché si diceva: se si tollerano i trust, se si tollerano questi enormi monopoli, se si tollerano gli accordi fatti per ingabbiare il mercato, alla fine la ricaduta politica di questi comportamenti sarà una restrizione dello spazio democratico, che deve essere popolato da soggetti che non devono vedersi preclusa la possibilità di accesso alla sfera pubblica o alla sfera economica dalla presenza di colossi che sono lasciati indisturbati. Quindi attenzione, l'antitrust agisce sul mercato, ma agisce sul mercato anche con un occhio alla politica, cioè alla dimensione democratica. Questo è stato così sin dall'inizio, non è una novità d'ora, tant'è vero che, per fare un esempio molto banale, una delle prime cose che hanno fatto gli americani quando sono sbarcati in Giappone nel 1945 è stato smantellare con l'antitrust tutto il sistema dei cartelli e degli oligopoli che costituiva la società giapponese, perché si riteneva che quella fosse stata foriera di istinti bellici e istinti espansionistici. Quindi io non vedo nessuna contraddizione tra un antitrust che guardi al mercato e guardi anche alla democrazia. Certo, la dimensione per intervenire è quella europea, a suo giudizio, guardando ovviamente questo dal nostro punto di vista. Io penso che sì, le singole antitrust nazionali possono fare qualcosa, però il gigante è talmente preponderante ed è talmente aggredito che l'antitrust europeo è la dimensione adatta. Ecco, per cui io mi sono personalmente rallegrato del fatto che l'antitrust abbia messo da parte alcuni scrupoli che aveva nel attaccare questo monopolio, ma penso che appunto sia Bruxelles che debba fare il suo mestiere, e mi pare che lo stia facendo, anche perché se si va alle radici del problema, cioè l'algoritmo, perché l'argomento, la retorica, chiamiamola così, di questi motori di ricerca, che dice ma l'algoritmo è automatico, non c'è una volontà dietro l'algoritmo, procede in modo meccanico e seleziona le informazioni in modo meccanico. Guarda caso però questo algoritmo è costruito più che al segreto della ricetta della Coca-Cola, quindi c'è qualcosa che non va, perché non voglio dire, se è così innocuo non ci spiegate come funziona, no? Bene, professore, grazie per essere stato con noi, a presto e buone vacanze. Anche a lei ricambio. Questo è Codice Sorgente, siete all'ascolto di Radio 24, adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco. Codice Sorgente. Riprendiamo questa puntata di Codice Sorgente. Ci stiamo interrogando su come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Simone Spezia. In questa puntata abbiamo parlato finora di economia intesa come grandi aziende che accumulano e gestiscono dati, e di come anche dal punto di vista della regolamentazione del mercato, dal punto di vista dell'antitrust, si possa pensare a qualche cosa di nuovo, come gestire queste grandi aziende che alcuni definiscono troppo grandi. Adesso parliamo invece dell'altra parte importante. Quando parliamo di aziende, l'altra parte importante delle aziende sono i lavoratori, tutti noi che lavoriamo in azienda. Simone. Sì, ci sono due fronti. Uno l'abbiamo già affrontato nella prima puntata, almeno in parte, ossia il tema dell'automazione, di quanto l'automazione effettivamente stia o non stia sottraendo, togliendo posti di lavoro, ma ci torneremo anche qua. L'altro aspetto è, per rimanere su quello che dicevamo prima, no? Perché siamo un po' sul crinale tra le categorie di pensiero novecentesche, anche in termini di antitrust, lo si diceva prima, e le categorie di pensiero degli anni 2000, e il tema sono i cosiddetti gig workers, ossia questi nuovi lavoratori che lavorano tramite le piattaforme. Pensate per esempio a quelli, l'esempio più semplice, sono coloro che ci consegnano il cibo a casa, nei tanti nuovi servizi che ci sono come Foodora, Uber Eats, tanto per fare qualche esempio, Deliveroo e via dicendo, sono, se vogliamo, l'esempio più classico, e che hanno portato anche a qualche tensione, per così dire, criptosindacale nei mesi scorsi per quanto riguarda Foodora, e che sono un po' in equilibrio, come tanti lavoratori moderni, tra il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo, e non si sa esattamente che cosa siano, non si capisce come bisogna inquadrarli, se inquadrarli e se lo si fa, come farlo senza fermare l'innovazione. E questo uno dei grandi problemi. Sì, a proposito di nuove categorie, anche questa è una nuova categoria, o potremmo dire la gig economy sta creando nuove categorie, utilizziamo il plurale. Gig in slang americano lavoretto, quindi questa nuova economia dei lavoretti che sono, come dicevamo pochi secondi fa, guidati da piattaforme. Il lavoro ha chiamato il lavoro on demand, che però è on demand tramite algoritmi o piattaforme che tipicamente arrivano via smartphone. Vorrei ricordare che sul Sole 24 Ore, proprio da questo fine settimana, da questa domenica 20 agosto, Luca De Biase, che è ancora qui con noi, si occuperà e lo farà per una serie di fine settimana, una buona lettura per la domenica, del futuro del lavoro. E qui si inserisce molto bene la gig economy, Luca. Eh sì, perché qui la domanda che ci facciamo è questa: posto che i mestieri sono collegati al saper usare degli strumenti di lavoro o a star dentro delle organizzazioni di lavoro, e vediamo che gli strumenti di lavoro, con la tecnologia che accelera continuamente, cambiano velocemente, che tipo di approccio dobbiamo imparare ad avere nei confronti di un futuro del lavoro nel quale le tecnologie cambiano, i mestieri quindi cambiano, le organizzazioni con le quali i mestieri vengono messi a disposizione del mercato cambiano, e noi rimaniamo sempre gli stessi che dobbiamo portare a casa la pagnotta ed essere felici. Questo tipo di discrasia tra il tempo della tra la velocità del cambiamento degli strumenti di lavoro, che significa anche dei mestieri, e la durata della nostra vita e della nostra capacità di esprimere la nostra esistenza in modo costruttivo e appunto felice, c'è una discrasia così grande che dobbiamo imparare a pensare il lavoro in un'altra maniera. Quello che stiamo osservando, che con questa domenica cerchiamo di raccontare, è il valore della resilienza. Gli shock del cambiamento sono attesi, succedono, continueranno a succedere, ma non devono cambiare il senso della nostra vita. E questo tipo di sintesi è ciò che dobbiamo imparare per poter lavorare davvero in futuro. Tra l'altro, noi abbiamo citato la gig economy, questa nuova categoria di lavoratori, ma ovviamente quello che tu stai dicendo vale per tutti. Le cose stanno già cambiando, cambieranno moltissimo per l'operaio in fabbrica, pensando a tutto quello che succederà con Fabbrica 4.0. Adesso abbiamo visto nulla ancora, e tutto quello che sta succedendo succederà nel mondo degli uffici, perché quando parliamo di automazione non dobbiamo pensare solo all'automazione delle macchine, ma sempre più anche la cosiddetta document automation, quindi l'automazione del mestiere d'ufficio. E moltissime banche e assicurazioni stanno investendo in tecnologia per sostituire ai noi i lavoratori, sì, che stanno alla scrivania. Sì, anche l'automazione delle professioni intellettuali, se consideri che ormai da tempo ci sono una serie di organi di stampa che utilizzano dei sistemi di, non li definirei nemmeno di intelligenza artificiale, almeno non per il momento, per costruire, per scrivere delle notizie. La Associated Press ha un accordo con un'azienda per cui ne escono, mi pare, 3.000 ogni trimestre, e sono di fatto risultati aziendali delle aziende meno importanti, e quindi a un certo punto arriverà qualcuno che parlerà con una voce migliore di noi e prenderà il nostro posto, è presumibile. Marco Bentivogli. Per fortuna siamo ancora più lontani rispetto a... Un pochino più lontani, però, ma sai, come abbiamo visto, visto i salti sono abbastanza rapidi. Sì. Marco Bentivogli, segretario della FIM CISL, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua, che è un po' in equilibrio tra le due cose, nel senso che lui è alla guida di un sindacato che si occupa di lavoratori, aperte virgolette, novecenteschi, appunto, ossia i metalmeccanici, che poi non è nemmeno vero, perché all'interno di questa categoria rientrano tantissimi tipi di lavoratori, e dall'altra parte è uno che si interroga molto su questi temi. Ci dà un'idea, secondo lei, per quel che ne sappiamo e per quel che abbiamo visto, se c'è un punto di equilibrio in quello che abbiamo detto? Ma io credo che il lavoro di queste ore, non del prossimo futuro, ma di queste ore, sia proprio ragionare su come costruire questo equilibrio, perché credo sia assolutamente alla nostra portata. Ci sono degli aspetti che aiutano a non centrare l'obiettivo, e uno di questi è leggere il nuovo lavoro e i nuovi lavoratori con le categorie novecentesche. Se per i soggetti appunto novecenteschi, tra cui anche forse il sindacato, la politica, l'università e tante altre cose, è necessario leggere ogni volta tutto il nuovo con le categorie vecchie, si fa uno scempio analitico e non si riesce, io dico sempre, rischiamo di vedere il mondo con un caleidoscopio che fa perdere ogni lucidità. In termini di mercato del lavoro, oggi la gig economy non sta dando una quota gigantesca di gig workers, però sono assolutamente interessanti, non le voglio rappresentare come delle cavie, fanno capire esattamente quello che già sta succedendo da anni nel mercato del lavoro americano, sulla necessità di costruire categorie interpretative nuove. Mi spiego, negli Stati Uniti si utilizza una classificazione attraverso l'accesso al welfare, alla previdenza, attraverso le due modulistiche. Il lavoro propriamente dipendente si usa il modulo W2, e mentre tutto il resto del lavoro indipendente è con il modulo 1099. E per cui c'è tutto il lavoro, il gig worker, il lavoro a chiamata, il lavoro indipendente, non esattamente il lavoro autonomo, che negli Stati Uniti già complessivamente rappresenta un terzo del mercato del lavoro. Nel prossimo futuro tutte le statistiche intelligenti, poi ci sono anche inventori di big data, ma sono fake data, rappresentano che il lavoro americano sarà per metà 1099, cioè un lavoro nuovo, e anche inquadrarlo nelle categorie vecchie non aiuta, è come ha cercato di fare il legislatore italiano dicendo non ci importa tanto di dire come sviluppare lo smart working, ci interessa soprattutto dire che è lavoro dipendente. Questo è un modo per guardare tutto con lenti vecchie. Sia chiaro, per un sindacalista come me il lavoro dipendente è più semplice da intercettare e da rappresentare, ma non posso ridurre il nuovo dentro una scatola di interpretativa assolutamente vecchia. Di fatto il lavoratore autonomo e il lavoro dipendente sono categorie convenzionali, noi già per molti anni siamo riusciti a metterle dentro questi due contenitori, ma il futuro sarà sempre un lavoro più simile non al risultato, come dicono troppe multinazionali, ma io dico sempre più simile a un progetto, cioè un progetto che crea non solo sul risultato, ma una reciprocità tra il lavoratore e chi dà una committenza un po' più profonda, un po' più impegnativa e importante, fatta soprattutto su un punto d'incontro il più possibilmente alto. È chiaro che noi abbiamo, in ultima battuta, una difficoltà ulteriore, noi siamo un paese ultimamente fortemente tecnofobo. La tecnologia di per sé non distrugge i posti di lavoro, sono le politiche sbagliate attorno all'incremento di utilizzo della tecnologia a distruggere il lavoro. Noi abbiamo perso quasi tutto l'elettrodomestico per gli scarsi investimenti in tecnologie, e allora proprio per questo probabilmente dovremmo riflettere in ultima analisi perché alcuni aspetti del rapporto tra il lavoratore e la app che lo guida sono entrati già nelle mie aziende novecentesche. Nell'auto a Pomigliano i lavoratori hanno un Apple Watch con cui sovrintendono e governano alcuni processi. Significa avere capacità di lettura dei dati, saper lavorare un po' più, sempre di più da remoto. Insomma, sono tutte cose di quel tipo di nuova economia che stanno condizionando anche l'industria. Su questo bisogna veramente avere una grande capacità di scrivere su un foglio bianco, senza pregiudiziali, senza pregiudizi, ma anche con grande spirito creativo. Adesso facciamo una pausa, un minuto, poi torniamo, anche perché vorrei chiedere a Luca De Biase quanto è d'accordo sul fatto che non bisogna essere tecnofobici o tecnofobi, e quanto è vero che la tecnologia non ruba posti di lavoro. Riprendiamo tra poco. Codice sorgente. Riprendiamo l'ultima parte di Codice sorgente. Stiamo parlando di lavoro nell'era in cui la tecnologia corre molto veloce e noi lavoratori siamo molto spesso più lenti rispetto ai cambiamenti tecnologici. E con noi ancora Luca De Biase, che è un nostro collega e caporedattore di Nova e Sole 24 Ore, che si occupa di innovazione. E come vi dicevo poco fa, Luca in questa domenica, ma anche nelle prossime domeniche sul Sole 24 Ore, si occuperà del lavoro che cambia, del lavoro del futuro. Quanto sei d'accordo sul fatto che la tecnologia non porta via posti di lavoro? Io personalmente sono un po' preoccupato rispetto a certe evoluzioni tecnologiche anche relative a lavori intellettuali, come dicevamo poco fa. Ma innanzitutto bisogna dare ragione a Marco che dice la mancanza di investimenti in tecnologia sicuramente produce perdita di posti di lavoro, perché produce perdita di competitività. Da questo punto di vista lui ha citato gli elettrodomestici, non vorrei citare l'editoria, ma ci siamo capiti. Quindi il problema è dal punto di vista della stare sul mercato, tu devi investire in tecnologia. Se non investi in tecnologia, le aziende spariscono, e se spariscono le aziende, spariscono i posti di lavoro. Detto questo, è chiaro che le nuove tecnologie spostano, cambiano i lavori, cambiano il modo di lavorare, in certi casi sostituiscono certe funzioni e quindi in qualche caso, in molti casi, anche le persone. Non si può negare che questo avvenga in molte situazioni. La questione è che la creazione di nuovi posti di lavoro che avviene con le nuove tecnologie vada più veloce della distruzione di vecchi posti di lavoro che avvengono per sostituzione delle tecnologie. In questa fase noi abbiamo l'impressione di avere di fronte un futuro nel quale per un certo tempo la creazione di nuovi posti di lavoro potrebbe andare più piano della distruzione di posti di lavoro. Questa è la preoccupazione, ma vorrei davvero capire se è una nostra percezione o no, perché io ho l'impressione che sia una questione di percezione dovuta al fatto che non stiamo capendo cosa sta succedendo. Certo, effettivamente interpretare già l'oggi, ma ancor più il domani, in questa fase è molto molto complicato. Tornando a Marco Bentivogli, noi siamo particolarmente felici di sentire riflessioni di questo genere da chi rappresenta il sindacato. Volevo capire quanto condivise sono queste riflessioni e quanto effettivamente anche assieme alla parte politica si sta pensando a soluzioni anche a livello europeo per gestire questi cambiamenti. Ma allora sicuramente dentro il sindacato ci sono opinioni radicalmente diverse, c'è un pezzo di sindacato che va verso il sostegno alla tecnofobia, di solito non io credo che non aiuti molto. Io penso semplicemente alla Corea del Sud e al Giappone, tutti quanti dire che sono nazioni fortemente high-tech, o sbaglio? Ecco, i tassi di disoccupazione di questi paesi sono tra i più bassi del mondo. Evidentemente ha ragione Luca De Biasi, cioè noi se non interveniamo in maniera pronta per governare e soprattutto anticipare il cambiamento, più perdite di posti di lavoro avremo, e di persone soprattutto che non vengono agganciate al cambiamento. Nel nostro contratto nazionale dei metalmeccanici abbiamo fatto una cosa di cui si è parlato poco, e cioè inserire il diritto soggettivo alla formazione, e per cui più di 30 anni dopo lanciare l'idea delle 150 ore digitali, perché il gap di competenze più grandi che abbiamo tra i lavoratori è proprio quello di competenze. Abbiamo il gap di skill rispetto a quelle che sarebbero ora necessarie, non in futuro. Quello crea disoccupazione, quello lascia le persone lontane dall'essere agganciate al futuro. Certo, non tutto il sindacato dice che il diritto alla formazione è il diritto più importante dei lavoratori, ma perché spesso gli si gratta la pancia esattamente come fa la politica, però in questo modo gli si garantisce l'esclusione sociale. Noi dobbiamo lavorare in questo senso. Io vedo il lavoro faticoso che sta facendo il ministro Calenda in questi giorni, anche nella vicenda Fincantieri. È purtroppo un lavoro troppo impegnativo, perché la nostra classe politica è industriale, cioè non si occupa, leggendo due o tre rassegne poco prima dell'intervento nel talk o nella trasmissione, ma la battaglia quotidiana, cioè è vero che c'è anche il nazionalismo industriale, però da una parte ci si occupa di industrie di lavoro, dall'altra no. Allora io penso che il fatto che la tecnologia distrugga alcuni posti di lavoro nocivi, io sono solo che contento. Io sono perché il lavoro si umanizzi sempre di più, e non c'è nulla di umanizzante nel respirare tutta la vita le esalazioni della saldatura o stendere l'asfalto. È complicato umanizzare quel lavoro lì. Allora la tecnologia può essere una grande occasione in questo senso per conciliare la vita e il lavoro delle persone, il funzionamento delle città. Tutto dipende da quanto giocheremo la partita, come stanno facendo altri paesi, o ci lasciamo andare rispetto a tanti vostri colleghi giornalisti che sono diventati anche dei veri e propri predicatori di tecnofobia e tra l'altro purtroppo con grande successo editoriale. Sì, posto lo stato dell'arte però a questo punto, e giro la domanda a Luca De Biase, mi sembra che un po' si vada a concretizzare quantomeno per quanto riguarda il nostro paese. È vero che dobbiamo guardare all'Europa, è vero che dobbiamo guardare al pianeta, tutto quello che volete, però devo anche guardare al mio. Mi sembra che si concretizzi un po' l'idea che stiamo trasmettendo, che comunque un certo periodo di, chiamiamola, disoccupazione tecnologica, anche se la parola è brutta e forse non, l'espressione è brutta e forse non condivisibile, possiamo aspettarcela. Intendo questo, che sarà pur vero che i metalmeccanici con il contratto firmato faranno 150 ore di formazione digitale, è pur vero che in questo paese la formazione a quelli che potremmo definire come i nuovi lavori è piuttosto scarsa e il sistema formativo tende ad essere arretrato su questo fronte. Allora, qualche rischio, Luca, sinceramente io lo intravedo, come dire, senza gettare ombre di eccessiva preoccupazione sulle persone, però qualche rischio lo vedo. Beh, in questo momento la macchina che gestisce le massime cause di disoccupazione in Italia si chiama debito pubblico, inefficienza organizzativa, scarsa lungimiranza delle forme con le quali organizziamo il lavoro. Questo è già successo e siamo già un paese con forte disoccupazione, specialmente giovanile. Per il futuro, tu dici, probabilmente va a finire che la percezione di perdita di posti di lavoro superiore alla creazione di nuovi posti di lavoro prevarrà. E io non ti so rispondere sinceramente, io so soltanto che noi nella nostra percezione sottovalutiamo quello che sta facendo il nostro paese, il nostro sistema industriale nelle cose che funzionano. Con le 400 miliardi e passa di esportazioni che noi facciamo e che continuano a crescere nonostante nel contesto, avvengano nel contesto della grande crisi del 2008, nel quale abbiamo perso il 25% di produzione industriale, le esportazioni hanno continuato a crescere e continuano a crescere proprio nella automazione industriale, nei robot industriali. Noi creiamo robot e li vendiamo in tutto il mondo, siamo quelli che eventualmente mangiano il lavoro degli altri creando posti di lavoro nostri. Sì. Io credo, sono d'accordo, e prima io e Simone annuivamo, visto che alla radio non si vede, lo diciamo, siamo d'accordo con quello che ha detto Luca De Biase e anche con Marco Bentivogli. Io credo che l'aspetto della formazione, che a volte è anche semplicemente informazione, che riguarda sia noi che dobbiamo fare informazione, i lavoratori che devono informarsi, sia molto importante, perché in molti casi se uno sa che cosa sta succedendo banalmente nel mondo, non necessariamente solo nel nostro paese, può capire certe dinamiche, può capire che certe cose sono inevitabili e quindi non bisogna combattere contro i mulini a vento, ma bisogna capire come magari modernizzare i mulini a vento partendo proprio dalla propria esperienza. Quindi torniamo, e così concludiamo questa puntata, quello che dicevamo all'inizio: la resilienza sul posto di lavoro parte da noi stessi. Deve essere un processo. Luca, di che cosa ti occuperai nelle prossime puntate di queste letture domenicali sul mondo del lavoro? Beh, dopo questa prima generale puntata andremo in uffici, fabbriche, chiese sconsacrate nelle quali ci sono nuove imprese che stanno creando nuovi posti di lavoro. Naturalmente andremo anche a cercare l'innovazione sociale che cerca di ricucire una società nella quale le avanguardie stanno correndo molto veloce in un contesto che cresce, che è quello del PIL mondiale, e nello stesso tempo una parte della popolazione non agganciata alla contemporaneità rischia gravi difficoltà. Formazione e informazione, ho l'impressione, la sensazione, Enrico, che ne parleremo parecchio anche la settimana prossima, perché la settimana prossima andremo a parlare dei nostri dati, della privacy, di come li cediamo piuttosto facilmente, piuttosto semplicemente, senza renderci conto effettivamente di quello che facciamo, e quindi esatto, ci torneremo. Stessa dinamica, poi. Sostanzialmente la stessa se dinamica. Se non sappiamo le cose. Grazie a Luca De Biase, grazie Luca, ciao, a presto. Grazie a voi. E grazie a Marco Bentivogli, a presto e buon lavoro. Grazie anche a voi. Noi chiudiamo questa puntata di Codice Sorgente, ci risentiamo la prossima settimana. Simone, tu hai già ricordato che la prossima settimana ci occuperemo di dati personali. Sì. Grazie anche a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica. E se vi siete persi qualcosa, naturalmente c'è il podcast. Esatto, appuntamento alla prossima settimana, sabato alle 16, domenica alle 10.